26. Se garantiamo la libertà ai negri e l'America agli indiani, cosa ci rimane, signori? Già, a chi vendereste i vostri schiavi africani se la sentenza Somerset diventa legge? Per parte mia, signor Paul, potrei chiedervi dove procurerete il legname per i vostri cantieri di New York se le foreste dell'entroterra restano in mano ai pelle rossa. Touché, ma la radice dei due problemi è la stessa, si chiama America. Oh no, signor Gilbert, l'America sarebbe la soluzione. È la miopia il vero flagello. Per avere il monopolio commerciale, finiremo col perdere l'intero mercato. Su via, non siate pessimista. Si prepara la controffensiva di primavera. Sua maestà invia truppe per chiudere i conti con questi ribelli. Ho sentito, sì, mercenari tedeschi, a quanto pare. È iniziato così il declino dell'impero romano. Mio Dio, quanto siete tetro! Ancora non abbastanza, Cavendish. Mi aspetto il peggio. Ma come si dice, un uomo d'affari deve saper guardare lontano. Bisogna lasciar passare la bufera. Allora verrà il nostro momento. Discorsi impegnativi per quest'ora del pomeriggio. Propongo di passare ad altro, signori. È vero che il nostro Corsica Boswell si è appartato nel privé con il principe degli indiani? Sì, credo si tratti di un'intervista. Niente meno, signor Wetbread. La concorrenza vi ha battuto allora. Poco male. Magari Boswell smetterà di tediarci con i suoi amici corsi e inizierà a propugnare la causa indiana. Se così fosse, signor Paul, potete scommettere che lo vedremo presto con le penne in testa. A proposito, corre voce che abbiano affiliato il selvatico guerriero alla loggia del Falcone. Capo Joseph Brent frammassone. Deve esserci un equivoco. Sono certo che appartenga al clan del coccodrillo. Buona questa. Chi avrebbe mai detto che avremmo assistito a un tale scempio? Negri, corsi o indiani, questa mania per l'esotico deve finire. Come avevamo previsto, inizia a fare seri danni proprio sotto il nostro naso. Avete letto dei fatti di Bedlam 3 notti fa? Certo, ha dell'incredibile. Pazzesco. È il caso di dirlo. Donne aggredite in mezzo alla strada, uomini intenti alle più stordide sconcezze contro stipidi e lampioni. Atti contro natura con cani e pollame. Ci sono voluti 2 giorni per riacchiapparli tutti. L'avevamo ben detto che questi indiani di città erano un pericolo. Ma il flatus vocis non basta, signori, e nemmeno la penna affilata del nostro amico Panifex, qui presente. Bisogna fare pulizia. Cosa intendete dire? Gli eventi ci hanno dato ragione. Questa confusione deve cessare. Forse non potremo impedire che si abolisca la schiavitù, ma niente più indiani in giro per Londra, né a Soho, né al nostro club. Ci bastano i 20.000 negri che affollano i tuguri delle stand, grazie. La delegazione ripartirà presto, non c'è da preoccuparsi. Bene, molto bene, signor Whitebread. Auguriamoci allora che insieme a essa spariscano anche i suoi epigoni.